Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Aprite la vostra Bibbia al capitolo 5 della lettera di Paolo ai Santi della Galazia. Capitolo 5 di Galati, quindi, leggerò i versetti che vanno dall'1 al 12. Dice l'Apostolo Paolo: Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi, state dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù. Ecco, io, Paolo, vi dichiaro che se vi fate circoncidere, Cristo non vi gioverà nulla. E da capo protesto ad ogni uomo che si fa circoncidere che egli è obbligato ad osservare tutta quanta la legge. Voi che volete essere giustificati per la legge avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Poiché quanto a noi è in spirito, per fede, che aspettiamo la speranza della giustizia. Infatti in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno, quel che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Voi correvate bene, chi vi ha fermati perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Riguardo a voi, io ho questa fiducia nel Signore che non la penserete diversamente, ma colui che vi conturba ne porterà la pena, chiunque egli sia. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolto via, si facessero pur anche evirare quelli che vi mettono sotto sopra. Dunque, insieme alle chiese della Galazia, si erano insinuati alcuni, o comunque c'erano alcuni, che mettevano sotto sopra gli animi dei discepoli, che li turbavano. E noi dobbiamo considerare che questo tipo di soggetti ci sono sempre stati nella Chiesa. Sono, diciamo, degli uomini scellerati, malvagi, impostori, bugiardi, che vogliono fare ricadere i credenti sotto la maledizione della legge. Perché vogliono farli ricadere sotto la maledizione della legge? Perché insegnano che si viene giustificati per le opere, o meglio, anche per le opere. Sostanzialmente loro dicono che l'uomo non viene giustificato per fede, ossia loro dicono che il giusto non vivrà per fede, ma vivrà per fede, per la sua fede e per le sue opere. Se non ve lo dicono apertamente, ve lo fanno capire chiaramente. Quello è il loro insegnamento, che è un falso insegnamento. Ora, con questo falso insegnamento, loro chiaramente fanno ricadere sotto la maledizione della legge coloro che lo accettano. Perché? Perché è scritto questo: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. In altre parole, costoro vogliono che i credenti si basino sulle opere della legge. Quindi non più sulla fede, non più sulla grazia, ma sulle opere della legge. Ora, in seno alle chiese della Galazia, costoro insegnavano la circoncisione, cioè la circoncisione nella carne, che noi sappiamo non la dobbiamo praticare sotto la grazia, perché giustamente Paolo dice che in Cristo Gesù né la circoncisione né l'incirconcisione hanno valore alcuno. Quel che vale è la fede operante per mezzo dell'amore. Ora, nonostante questo, c'erano coloro che, spingevano i credenti a farsi circoncidere nella carne per essere giustificati. In sostanza, costoro dicevano, se non vi fate circoncidere, non potete essere giustificati. L'Apostolo Paolo, venuto a sapere questo, scrisse appunto questa epistola. Questa epistola che è estremamente importante perché? Perché si leva in difesa della giustificazione per fede e quindi della giustificazione per grazia. E io vi esorto, fratelli e sorelle, a leggerla spesso questa epistola, perché è di fondamentale importanza per capire la giustificazione per fede, perché noi siamo giustificati per fede. Giustificati dunque per fede, dice Paolo ai Romani, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Ora, costoro che cos'è che facevano? Turbavano e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo. Lo dice Paolo all'inizio di questa epistola, quando gli dice: io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamato mediante la grazia di Cristo a un altro Evangelo, il quale poi non è un altro Evangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Ora, notate che cosa dice Paolo. Non è che è un altro Evangelo, però che cosa facevano costoro? Turbavano i santi e volevano sovvertire l'Evangelo di Cristo, cioè metterlo sotto sopra. Voi direte perché? Perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, del giudeo prima poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto: ma il giusto vivrà per fede. Ora, nel momento in cui qualcuno vi viene a dire che per essere giustificati avete bisogno di osservare le opere della legge, cosa sta facendo costui? Sta sovvertendo l'Evangelo di Cristo. Perché? Perché nell'Evangelo di Cristo è rivelata la giustizia di Dio basata sulla fede, che è una giustizia perfetta, che è una giustizia che non è mancante di nulla, non è che è una giustizia che bisogna integrare con le opere della legge o con la propria giustizia. No, è una giustizia perfetta. Nel momento in cui l'uomo crede nell'Evangelo, egli viene giustificato per fede e quindi per grazia. Perché? Perché la sua fede gli viene messa in conto di giustizia. Ma perché questo? Perché Cristo è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede. Questo è di fondamentale importanza, saperlo e averlo sempre davanti ai propri occhi. Ora, costoro cercavano di obbligare i credenti a farsi circoncidere. Qualcuno dirà: beh, ma però io non conosco nessuno che mi viene a dire che se non sei circonciso secondo il rito di Mosè non puoi essere giustificato. Sì, ma ti dirò che puoi trovare invece qualcuno che ti dirà: se non paghi la decima, se non paghi la decima, tu non puoi essere giustificato e quindi non puoi essere salvato. Vedete, tutti coloro che impongono la decima sotto la grazia, alla fine che cosa fanno? Che cos'è che fanno nella pratica? nella pratica dicono che se tu non paghi la decima sei sotto maledizione, sei maledetto. Ora, secondo la legge, chi non dava la decima ai leviti che erano stati appunto messi da parte dal Signore, diciamo anche per questo, per riscuotere le decime dal popolo, sotto la legge sicuramente chi non dava la decima era sotto maledizione, cioè colpito di maledizione, ma sotto la grazia non è che vige il comandamento di dare la decima. E quindi se un credente non dà la decima non è che viene colpito di maledizione da parte di Dio. Ma costoro che cosa fanno? Vi vogliono fare credere che se voi non pagate la decima, a loro naturalmente che non sono leviti, peraltro, anche questo, ricordatevelo che erano i leviti e solo loro che dovevano riscuotere le decime, invece questi pastori che non sono leviti, cioè non sono discendenti di Levi, pretendono pure, cioè le decime non sono sotto, loro dicono di essere sotto la grazia, però pretendono di riscuotere le decime che erano state ordinate appunto sotto la legge e che dovevano essere date dal popolo ai leviti. Pensate voi, fratelli nel Signore, quante contraddizioni, dimenticando che Gesù stesso non disse mai ai suoi discepoli dovete darmi la decima delle vostre entrate, mai lo disse. Come poteva Gesù? Come poteva Gesù, che era poi un discendente della tribù di Giuda? Gesù non era un levita, non poteva riscuotere le decime, infatti Gesù non ordinò mai ai suoi discepoli di dargli la decima. E invece costoro cosa fanno? Che cosa fanno costoro? Ordinano ai credenti di dare a loro le decime. Ripeto, sotto la grazia non c'è il comandamento di dare la decima. La decima doveva essere data sotto la legge ai leviti, Però, sapete, la decima fa comodo perché, diciamo che imporre la decima significa avere delle entrate fisse, diciamo, notevoli, di una certa consistenza, e allora tanti pastori naturalmente la impongono, la ordinano. Poi non credete a quelli che dicono, oh, no, ma noi non la imponiamo, la consigliamo. Come la consigliate? La consigliate però citando Malachia, le parole di Malachia contro coloro che non davano le decime e quindi che erano colpiti di maledizione. E che consiglio è? Consiglio con maledizione, con la minaccia della maledizione divina. Ipocriti, razza di vipere. Voi ormai abbiamo capito cosa siete. Siete delle vipere. Voi non siete delle pecore. Voi siete delle vipere e usate stratagemmi di ogni genere appunto per fare soldi, basandovi appunto sull'ignoranza, approfittando dell'ignoranza di tanti credenti che la Bibbia non la aprono mai e che si basano solamente su quello che sentono la domenica, quando ci vanno la domenica, quando si ricordano di andare la domenica al locale di culto. Ecco. Di questi naturalmente voi fate quello che volete, ma siccome che il Signore ha stabilito delle sentinelle affinché suonino la tromba, e io sono una di quelle sentinelle, io suono la tromba affinché voi siate svergognati e affinché i credenti a voi le decime non ve le diano, perché non ve le devono dare. Voi non avete il diritto di riscuotere le decime, non ce l'avete, e non ci avete il diritto quindi di imporre la decima. Allora vi stavo dicendo, fratelli del Signore, che imponendo la decima in questa maniera, che cosa fanno loro? Turbano gli animi dei credenti, perché gli fanno capire che senza il pagamento della decima loro saranno in difetto quanto alla giustificazione. Ma non è così, perché la giustizia di Dio, basata sulla fede, che viene dalla fede, è perfetta, non ha bisogno del pagamento della decima per essere perfezionata. Perché coloro che sostanzialmente insegnano la giustificazione per opere non fanno altro che fare passare la giustizia di Dio per imperfetta, mancante, difettosa. Ricordatevi di quello che dice Paolo. Io non annullo la grazia di Dio, perché Se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Costoro dunque, predicando la giustizia che viene dalla legge o dalle opere, non fanno altro che annullare la grazia di Dio. Perché noi siamo sotto la grazia, non siamo sotto la legge. Siamo sotto la grazia. Chi ci ha messi sotto la grazia? Ci ha messo il Signore. Quindi rimaniamoci sotto la grazia. Non facciamoci trasportare dagli scellerati sotto la legge, con i loro stratagemmi, con i loro vani ragionamenti. Dice bene Paolo, se la giustizia si ottiene per mezzo della legge, Cristo è dunque morto inutilmente. Quindi costoro che turbano gli animi dei discepoli, che vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo, stanno presentando una morte di Cristo inutile. Infatti a loro della morte di Cristo non gli interessa niente, e infatti loro insegnano la giustificazione per le opere della legge perché non vogliono essere perseguitati per la croce di Cristo, vogliono che sia tolto lo scandalo della croce, perché sapete, la parola della croce è scandalo. Come? La parola della croce è scandalo, come dice l'apostolo Paolo, dice che predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per i gentili pazzia. E quindi, siccome che costoro non vogliono essere perseguitati a motivo della parola della croce, dell'Evangelo, e quindi si inventano appunto questa giustificazione per le opere. Vedete quanto l'apostolo Paolo è stato duro contro costoro, ha detto, si facessero pure anche virare quelli che vi mettono sotto sopra, è grave quello che costoro fanno, è grave. Vedete cosa gli dice ai santi della Galazia, voi correvate bene, chi vi affermate perché non ubbidiate alla verità? Una tale persuasione non viene da colui che vi chiama. Vedete quanto è stato duro nei confronti di coloro che appunto turbavano questi credenti, ma non solo è stato duro verso quelli che turbavano i credenti, ma anche verso coloro che poi volevano essere giustificati per la legge. Che cosa gli ha detto? Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunciato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Badate bene che quelli che turbano gli animi dei discepoli e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo, non è che vi vengono a dire, ascoltatemi molto bene, non è che vi vengono a dire che l'Evangelo non è Cristo per i nostri, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che fu seppellito, risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti a Dio. Non è che vi vengono a dire che questo non è l'Evangelo, anzi no, vi vengono a dire che questo è l'Evangelo, ma ci mancherebbe altro. Ma loro che cosa fanno? Perché sono astuti come il serpente, il loro padre e padrone, il loro suggeritore, nonché il loro seduttore. Che cos'è che fanno? Loro praticamente vi dicono, no, questo è l'Evangelo, però attenzione, il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. Quindi, in altre parole, stanno sovvertendo l'Evangelo di Cristo, come vi stavo dicendo prima, perché fanno passare la giustizia di Dio, che è rivelata nell'Evangelo, come insufficiente. È lì allora che vengono smascherati. Li dovete fare parlare, perché poi capirete dove vi vogliono portare. Quando vi parlano delle opere buone, fateli parlare, perché voi, pian piano, man mano che loro parlano, capirete dove vi vogliono portare, sotto la maledizione della legge. Vogliono portarvi a rinunziare a Cristo, perché Cristo è l'eterno nostra giustizia, perché Cristo è giustizia. Giustizia, fratelli nel Signore, in Cristo noi abbiamo tutto pienamente. L'apostolo Paolo ha detto che nel capitolo 10 dei Romani, che il termine della legge è Cristo per essere giustizia ad ognuno che crede. Infatti Cristo ci è stato fatto da Dio anche giustizia. Capite perché in Cristo abbiamo tutto pienamente? Lui ci è stato fatto da Dio giustizia, è Lui la nostra giustizia, Cristo Gesù, il Figlio di Dio. E allora dovete stare molto attenti a, diciamo, all'astuzia delle persone. Vedete, il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia. E questi scellerati cercano di sedurvi con la loro astuzia. Sono astuti. Loro non vi vengono a dire apertamente determinate cose, ma vi portano poi dove vogliono loro. Avete capito? Vi vogliono portare sotto la maledizione della legge. Cioè, in sostanza, loro vogliono portarvi a rinunziare a Cristo, a scadere dalla grazia. Certo, perché quelli che vogliono essere giustificati per le opere della legge, poi rinunziano a Cristo, ma per forza. L'astuzia di costoro qual è? Quella di farvi credere, che loro credono nell'Evangelo, ma non è così, fratelli, non ci credono nell'Evangelo. Coloro che predicano che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere non credono nell'Evangelo. Ve lo posso proprio mettere, non solo per iscritto, ma lo posso gridare ai quattro venti. Perché? Perché ho studiato la dottrina malefica, diabolica, astuta della Chiesa Cattolica Romana. E ci ho messo un bel po' per capirla. Quando mi ricordo, quando scrissi il libro contro la Chiesa Cattolica Romana molti anni fa, naturalmente fui costretto a studiare i libri di teologia dei teologi papisti, che sono dei mattoni, cioè che sono veramente dei libri anche complessi, non è che sono libri, diciamo, per tutti. Allora, bisogna avere, diciamo, una certa preparazione biblica, perché? Perché sono astuti, Perché appunto loro sovvertono l'Evangelo di Cristo. Sì, vi dicono che l'Evangelo è quello, sì, ve lo dicono, vi citano 1 Corinzi capitolo 15, però poi tu devi seguire il loro ragionamento passo per passo per capire dove ti vogliono portare. Loro ti vogliono portare a rinunziare a Cristo e a scadere dalla grazia. Perché? Perché loro, facendo, diciamo, leva sul valore delle opere buone, le opere buone hanno un valore, Le opere buone, voi sapete, noi le dobbiamo praticare, sono state innanzi, diciamo, preparate da Dio affinché noi le pratichiamo. Noi siamo il popolo di Dio e dobbiamo essere un popolo zelante nelle opere buone. Allora, partendo dal valore delle opere buone, loro ti conducono dove vogliono portarti, cioè a rinunciare a Cristo, perché ti vogliono fare credere che tu non puoi dire, attenzione, di essere stato giustificato, non puoi dire di essere giustificato per fede, perché ci devi aggiungere pure le opere per essere giustificato. Attenzione, quindi per loro le opere hanno il potere di giustificare l'uomo, e quindi se hanno il potere di giustificare l'uomo sono opere espiatorie. Infatti la Chiesa Cattolica Romana insegna praticamente questo, che le opere buone diventano espiatorie. Infatti quando i cattolici vanno dal prete, vanno a confessarsi, il prete li assolve, gli dà poi delle opere da compiere. Quelle opere sono espiatorie, capite? Sono sì, espiatorie. Anche le elemosine, che poi magari il prete prescrive, sono espiatorie, cioè espiano i peccati in qualche maniera, o comunque la colpa, non importa come, diciamo, la presentano la cosa. Allora, che cosa succede? Che astuti come sono questi teologi, arrivano poi ad annullare la grazia di Dio e naturalmente si appoggiano poi sul Concilio di Trento, sui vari anatemi, che il Concilio di Trento è ancora valido, della Chiesa Cattolica Romana, i vari anatemi che sono stati lanciati contro coloro che proclamano che il giusto vivrà per la sua fede. Sì, perché il Concilio di Trento fu appunto, organizzato, fu fatto per contrastare la riforma protestante, che affermava che il giusto vivrà per la sua fede. E allora, in questo concilio ci sono vari anatemi, ci sono degli anatemi anche contro coloro che credono nella giustificazione per fede e quindi nella giustificazione per grazia. Ecco perché noi non andiamo d'accordo con i cattolici romani, perché i cattolici romani predicano che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere. Facendo così annullano la grazia di Dio. Ma guai a noi se noi annullassimo la grazia di Dio. Vedete l'apostolo Paolo parlando ai santi di Roma, che cosa gli dice? Che c'è un residuo secondo l'elezione della grazia, no? In seno al popolo ebraico. E poi dice Paolo, ma se è per grazia non è più per opera, altrimenti grazia non è più grazia. Allora, se la giustificazione è per grazia, non è più per opere. Altrimenti grazia non è più grazia. Gli apostoli esortavano i credenti a perseverare nella fede, nella grazia di Dio. Certo, gli esortavano pure ad essere zelanti nelle opere buone, ma le opere buone esortavano a farle in vista poi del premio che i santi riceveranno davanti al tribunale di Cristo per le loro opere buone che hanno compiuto quando erano nella carne. Eh sì, perché quando noi compariremo davanti al tribunale di Cristo, il Signore ci retribuirà secondo appunto le nostre opere, ossia ci premierà in base alle nostre opere buone, in base alle nostre fatiche. Ciascuno riceverà il premio secondo la propria fatica, ma il premio non è la vita eterna. La vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù, nostro Signore, che si riceve e si mantiene mediante la fede. Il premio è, diciamo, qualcosa che ci viene dato perché ce lo siamo meritato. Uso questa espressione perché affinché sia chiaro. Il premio, diciamo, ci verrà dato perché, diciamo, in base a quello che abbiamo fatto, in base, diciamo, alle nostre fatiche nel Signore, che varierà naturalmente a secondo di quanto uno, in base a quanto uno ha faticato nel Signore. Ma ricordatevi questo, che è appunto un premio, che poi alla fine, che poi questo premio noi riusciremo, diciamo, a ottenerlo per la grazia di Dio. Perché diceva bene Paolo, ho faticato più di loro tutti, non già io però, ma la grazia di Dio che è con me. Cioè, alla fine la grazia di Dio che è, diciamo, con noi. Chiaramente la misura della grazia varia, però voglio dire, in base alla grazia che noi abbiamo ricevuto, noi ci affatichiamo nel Signore per quelle fatiche e poi otterremo un premio. Allora state molto attenti, perché la Chiesa Cattolica Romana, con questa, diciamo, falsa dottrina sulla giustificazione, chiaramente poi crea l'insicurezza massima. Ovvio questo, perché coloro che poi fanno le opere prescritte dalla Chiesa Cattolica Romana, che naturalmente loro presumono che siano credenti, che siano cristiani quelli che fanno queste opere, non hanno la certezza della giustificazione. Eh sì, proprio così, ma perché? Perché se la devono guadagnare con le opere buone. Parlate con i cattolici romani e vedrete che le cose stanno così. Allora, questa malefica dottrina della Chiesa Papista, naturalmente, ha delle ripercussioni anche sulla vita eterna, sulla dottrina sulla vita eterna. Infatti i cattolici romani non solo non sono sicuri della loro giustificazione, perché devono integrare, secondo il loro punto di vista, no? Devono integrare la giustizia che viene da Dio con la loro giustizia. E quindi vedete un po' voi che cosa, quale certezza possono avere. Non hanno nessuna certezza di essere giustificati, e infatti non sono sicuri di essere giustificati. Ma per quanto riguarda la vita eterna, vi fanno un discorso, diciamo, che è improntato, diciamo, all'incertezza. Perché? Che cosa vi dicono? Quando voi gli chiedete, hai la vita eterna? Chiedete a un cattolico romano, hai la vita eterna? Qual è la risposta? Beh, no, questo non posso dirlo, non sono così presuntuoso, sto facendo del mio meglio, mi sto faticando, sto facendo tante rinunce, mi sto sacrificando per, diciamo, poter guadagnarmi la vita eterna. Allora, chiaramente, loro non è che negano, il cattolico che ti risponde così, non è che nega di non credere, no, lui ti dice io credo in Gesù, Però poi, quando gli dici hai la vita eterna, ti fa questo discorso. Perché? Perché la Chiesa Cattolica Romana ha minato alle fondamenta la dottrina della giustificazione per fede. E praticamente lo sconvolgimento di questa dottrina ha portato poi naturalmente delle nefaste conseguenze su tutto. Ecco perché poi il cattolico risponde in quella maniera quando voi gli chiedete ma tu ce l'hai la vita eterna? E poi puoi stare lì ore e ore a dirgli ma guarda che la vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù, guarda che si ottiene per fede, non ti crede perché gli è stato inculcato al cattolico che la vita eterna ce la si guadagna coi sacrifici. Troppo facile come la fate voi evangelici la cosa, è troppo facile come la presentate voi, allora uno basta che crede e c'ha la vita eterna, sì. È così, perché Gesù ha detto chi crede ha vita eterna. Io credo in Gesù Cristo, credo nelle sue parole. Le sue parole sono veraci perché Lui ha detto la verità. Perché Lui è la verità. La verità, non una verità, come vanno dicendo i bugiardi. E allora, fratelli nel Signore, appunto vi stavo dicendo che poi io ho capito, diciamo, l'inganno il grande inganno perpetrato dalla Chiesa Papista, quando appunto mi sono fiondato nei loro, libri di teologia. Allora lì ho capito i ragionamenti che fanno per annullare la grazia di Dio e per fare dipendere la giustificazione, poi, in fin dei conti, dalle opere. Come anche naturalmente la vita eterna, perché la vita eterna nella Chiesa Cattolica Romana non è il dono di Dio, ma è una paga, è diciamo un qualcosa, è un salario, è qualcosa che la si deve meritare. Allora ecco perché la Chiesa Cattolica Romana ci detesta, noi che predichiamo l'Evangelo, che predichiamo la giustizia di Dio basata sulla fede, capite? Perché noi, predicando l'Evangelo e la giustificazione per fede, praticamente rendiamo vano tutto, diciamo, il loro sistema teologico, che poi appunto è fondato su questo errore. Sì, proprio questo errore. Quindi state attenti, perché anche in mezzo alle chiese evangeliche ci sono degli evangelici che sono diversamente cattolici, praticamente dicono le stesse cose, solo che li dovete snidare. Com'è che li snidate? Mettendoli alla prova, provandoli. Allora, quando li mettete alla prova, poi vedete che dal loro cuore malvagio, disonesto, sleale, doppio, tireranno fuori appunto la teologia papista. Non è niente di nuovo quello che costoro insegnano. Io non mi sorprendo mica quando scopro che qualcuno diciamo insegna questo. Perché? Perché già la Chiesa Cattolica Romana la insegna da tanto tempo questa dottrina. Poi loro naturalmente possono presentarla in una maniera leggermente diversa. Magari escludono il purgatorio, perché sono evangelici, si presentano come evangelici, no? Magari, che vi posso dire io, non vi presentano le indulgenze, sicuramente non vi presentano le indulgenze, però stringi, scava, poi trovi sempre la solita eresia che venne introdotta in seno alla Chiesa della Galazia. Alla fine le cose stanno in questa maniera, perché la Chiesa Cattolica Romana che cos'è che ha fatto praticamente? Se voi ci riflettete, ha annullato la grazia di Dio, in questa maniera, facendo dipendere la giustificazione dalle opere, non escludendo la fede, attenzione, perché l'astuzia consiste proprio in questo, nel non escludere la fede. Non è che chi vi viene a ingannare, chi vi vuole fare rinunciare a Cristo, vi viene a dire no, smetti di credere in Gesù, no, non credere che Lui è morto per i nostri peccati, no, non credere che Lui è risuscitato a cagione della nostra giustificazione, no, ti dirà no, questo è l'Evangelo, fratello. Poi però attenzione, perché quando comincia a parlare delle opere buone, allora capirai dove ti vuole portare a rinunciare alla giustizia di Dio basata sulla fede. O meglio, lui ti presenta una giustizia di Dio difettosa, mancante, che c'ha bisogno appunto delle opere buone che poi ti prescrive la setta di turno, che può prevedere la decima, che può prevedere, diciamo, magari un certo numero, diciamo, di opere buone fatte ogni settimana, ogni giorno, ogni mese, dipende, perché poi queste sette che annullano la grazia di Dio, chiaramente hanno tutte un sistema, diciamo, teologico, diciamo loro. Possono anche, per esempio, che vi posso dire, oltre la decima vi possono prescrivere anche l'osservanza del sabato, per esempio, Voi sapete che sotto la grazia non siamo chiamati a osservare il sabato, però diciamo possono anche imporvi l'osservanza del sabato ai fini della giustificazione, o vi possono imporre la circoncisione, naturalmente non è mai da escludere, o vi possono imporre precetti vari, per esempio vi possono anche insegnare che dovete pregare un tot per essere giustificati, o che dovete digiunare un tot di volte per essere giustificati, o che dovete dare un tot di elemosine per, diciamo, essere giustificati. Insomma, creano tutto un sistema diabolico che praticamente schiaccia il credente e lo distrugge, gli fa rinunziare a Cristo, lo fa scadere dalla grazia. Vedete le parole di Paolo? Voi che volete essere giustificati per la legge, avete rinunziato a Cristo, siete scaduti dalla grazia. Quindi questa mia predicazione ha lo scopo di esortarvi a rimanere sotto la grazia, fratelli del Signore. Rimanete sotto la grazia, perché troverete sempre qualcuno durante il vostro cammino che cercherà di portarvi lontano dalla grazia, di farvi rinunziare a Cristo e scadere dalla grazia. Ma ricordatevi di quello che avvenne in seno alle chiese della Galazia. Se voi notate, questo fu un grosso problema che gli apostoli dovettero affrontare, ma già nel capitolo 15 del libro degli Atti degli Apostoli troviamo un tentativo di fare ricadere i credenti sotto la maledizione della legge. Vi ricordate? Quindi non è che noi adesso ci meravigliamo se alcuni usciti di fra noi si sono messi a insegnare che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere, no. Però chiaramente dobbiamo mettere in guardia. Vi stavo dicendo, al capitolo 15 degli Atti degli Apostoli, dice: alcuni discesi dalla Giudea insegnavano ai fratelli: se voi non siete circoncisi secondo il rito di Mosè, non potete essere salvati. Allora, lì vedete, è sorto un problema, una questione, diciamo, di grande importanza, che poi fu risolta grazie a Dio. Però, vedete, questo pericolo c'è sempre, non è che è un pericolo che non esiste, è un pericolo che esiste, e come se esiste. Ricordatevi che lo spirito dell'anticristo è nel mondo, Lo spirito dell'anticristo è nel mondo, l'anticristo deve venire, Ma lo spirito dell'anticristo è nel mondo, fratelli, e che cosa pensate che faccia lo spirito dell'anticristo? Insegna cose contro Cristo, e coloro che insegnano che il giusto vivrà per la sua fede e per le sue opere non sono mossi dallo spirito di Cristo, ma sono mossi dallo spirito dell'anticristo. Sì, perché vogliono portarvi poi a negare che Gesù è il Cristo. Senza che voi ve ne accorgiate, vi porteranno, perché voi rinunzierete a Cristo, appunto, poi, diciamo, rinnegandolo nella pratica, rinnegando che Gesù è il Cristo, perché vi porteranno a credere che Gesù, Cristo, non è stato fatto da Dio giustizia. vi porteranno a credere che Cristo non è il termine della legge per essere giustizia ad ognuno che crede, vi porteranno a credere che Gesù non è l'eterno nostra giustizia, e quindi dovete stare molto attenti. Dovete stare molto attenti, fratelli del Signore, che la vostra vita sia sempre concentrata su Cristo. Guardate sempre a Cristo, che ci è stato fatto da Dio giustizia, sapienza, redenzione, santificazione. Fratelli, Cristo, ogni cosa in tutti. Cristo in noi, speranza della gloria. Cristo. E infatti, fratelli del Signore, l'Evangelo è sempre stato sotto attacco. Perché? Ed è sotto attacco ancora oggi. Perché? Ma vi siete mai chiesti perché l'Evangelo è così tanto odiato? La buona novella! Cioè, qualcuno potrebbe dire, ma come? La buona novella! Ma perché? Perché nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio, basata sulla fede, basata sulla fede, da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Allora, che cosa significa questo? Che l'Evangelo colpisce, distrugge l'orgoglio dell'uomo, perché l'uomo dice, io mi guadagno la giustizia con le mie opere, non ho bisogno di riceverla gratuitamente da questo Dio, io me la merito con le mie opere, è l'Evangelo. Praticamente è come se dicesse, no, tu non puoi essere giustificato per le tue opere, hai bisogno di credere nell'Evangelo per essere giustificato. L'Evangelo è per questo che è odiato, i ministri dell'Evangelo perché sono odiati così tanto dal mondo e anche da tanti che si definiscono evangelici, ma che, perché predicano la giustizia che viene dalla fede, la giustizia che viene dalla fede sostanzialmente, voglio dire, distrugge tutti questi sistemi teologici settari che fanno dipendere la giustificazione dalle opere in definitiva. Capite? Sì, loro non escludono la fede, però quando parlano delle opere voi noterete che loro fanno dipendere la giustificazione dalle opere, ma sono capaci anche di dirvi che se voi non lavate i piedi puliti ai credenti, i piedi puliti, non quelli sporchi, perché infatti dicono lavatevi prima i piedi a casa, poi venite al culto con i piedi puliti, che ce li laviamo, uomini con uomini e donne con donne, ma che cos'è questa? Che cos'è questa? La lavanda dei piedi puliti. Ora, noi siamo favorevoli a lavare i piedi, ma quelli sporchi, dei credenti, sì, siamo favorevoli. Siamo favorevoli anche che una sorella lavi i piedi sporchi a un fratello viandante che passa di casa. Sì, siamo favorevoli. Certo che siamo favorevoli. Ma noi siamo contrari a questa, sceneggiata ipocrita, che appunto fanno quelli della lavanda dei piedi puliti, che dicono, fratelli, mi raccomando, fratelli e sorelle, domani sera, lavatevi i piedi, perché poi domani c'è il culto, e lavatevi i piedi affinché vi presentate al culto con i piedi puliti, perché dobbiamo fare la lavanda dei piedi. Ma quella è la lavanda dei piedi puliti, ma se si devono lavare i piedi devono essere sporchi, non vi pare? Cioè, che facciamo qua? Ma questi si vogliono prendere in giro, questi qua veramente sono proprio delle persone, ma ce ne sono nel mondo di questi ipocriti, ma quanti ce ne sono di questi ipocriti? Poi stanno tanto a guardare a lavare i piedi puliti, figurati, manco quelli sporchi, quelli puliti, e poi sono pieni veramente, hanno la coscienza contaminata di opere morte, ma così contaminata che appunto proprio si dimenticano di avere la coscienza contaminata, sporca, odorante di morte, quella si dimenticano, quella sporcizia che c'hanno dentro a motivo del peccato a cui loro sono dati, quella se la dimenticano, però si ricordano appunto dei piedi puliti, per lavare, per fare vedere che loro sono umili e sono capaci a dirvi che se non fate la lavanda dei piedi puliti, voi non potete essere giustificati. sì, ve lo fanno capire in qualche maniera, ve lo fanno capire in qualche maniera, è come se ve lo fanno capire, perché quando cominciano a dire che se voi non fate la lavanda dei piedi puliti, siete dei superbi, che non vi umiliate davanti a Dio, che non sapete cosa sia l'umiltà, e quindi che cosa vi stanno dicendo? Cosa vi stanno dicendo? Che Dio vi umilierà, che Dio vi avvilirà, perché non fate la lavanda dei piedi puliti. Attenzione! Io ci aggiungo questo piedi puliti perché è molto importante, perché queste sono razze, sono delle vipere, questi sono degli ipocriti, capite? Questi sono degli ipocriti, hanno creato il rito! Hanno creato il rito, come l'ha creato la Chiesa Cattolica Romana, per ostentare che cosa? Di essere umili quando sono superbi in cuor loro oltremodo? Quando li sentite parlare la loro bocca passeggia per il cielo, credono di essere veramente Dio, tant'è che loro danno ordini a Dio, loro prescrivono a Dio la via da seguire, le vie di Dio non le sopportano, il modo d'agire di Dio non lo sopportano, infatti stanno sempre lì a maledire Dio, a contrastare Dio, a lottare contro Dio, però poi chissà perché, naturalmente lo sappiamo perché vogliono ostentare una umiltà che non hanno, e chi li conosce sa che costoro non sono umili di cuore, ma sono superbi. Quindi state molto attenti, fratelli del Signore, perché le sette sono opera della carne, le sette sono opera della carne ed esistono, e le sette annullano la grazia di Dio, perché le sette, appunto, non è che sono opera del Signore, sono opere della carne. La carne ha desideri contrari allo spirito, e quindi praticamente, dato che è un'opera della carne, contrasta poi lo spirito della verità. Infatti costoro contrastano lo spirito della verità e vi annunziano la giustizia che viene dalle opere. Sostanzialmente loro vi annunciano la via delle opere. Quindi dovete vigilare perché coloro che annullano la grazia di Dio c'erano, ci sono e continueranno a esserci. Cioè voi dovete fare come le sentinelle, stare sempre in guardia, in allerta. Soprattutto in questo periodo veramente dove in mezzo alle chiese hanno introdotto ogni sorta di eresia di perdizione. Vegliate, fratelli, perché i tempi sono difficili. Sono difficili, sono malvagi e diciamo c'è un'avversione verso la grazia di Dio notevole. Molti veramente stanno facendo di tutto per annullare la grazia di Dio. Ci sono quelli che l'hanno convertita in dissolutezza, ma ci sono quelli anche che l'hanno annullata, appunto, introducendo la giustificazione per opere. Quindi state zelanti nelle opere buone, non fate suonare la tromba quando fate il bene, fate il bene, fate del bene a tutti, fratelli, specialmente a quelli della famiglia dei credenti, quando ne avete l'opportunità, secondo che il Signore vi dà l'opportunità, veramente fate del bene, siate zelanti nel bene, nelle opere buone, senza strombazzarle, perché il Signore veramente vuole che noi facciamo il bene, senza appunto ostentare che lo facciamo, se non è che dobbiamo andare a far sapere al mondo quello che facciamo, è il bene che facciamo, andiamo a pubblicare su internet che cosa? Andiamo a pubblicare le opere buone che facciamo, ma lungi da noi, fratelli nel Signore, lungi da noi. Alcuni amano farlo, ma questa è la loro ricompensa, no? Quella di essere onorati dagli uomini. Noi invece vogliamo veramente la ricompensa che viene da Dio, quindi ci studiamo di fare il bene, diciamo, segretamente. Però ecco appunto, siate zelanti nel bene, siate zelanti nelle opere buone, però ricordatevi sempre che noi siamo giustificati per fede e quindi per grazia, e che se possiamo dire che abbiamo la vita eterna è perché appunto il Signore ci ha giustificati. Noi abbiamo la vita eterna in Cristo Gesù, il nostro Signore. Lui è la vita eterna, che era presso il Padre, che ci fu manifestata, e quindi noi siamo sicuri non solo di essere giustificati, ma ne siamo anche sicuri di avere la vita eterna. Le cose camminano assieme, ricordatevelo, Chi è sicuro della giustificazione è sicuro di avere anche la vita eterna. Chi non ha la vita eterna, chi non è sicuro di avere la vita eterna, non è sicuro neppure di essere giustificato. Perché la vita eterna si ottiene nella stessa maniera in cui si ottiene la giustificazione. Per fede! E quindi gratuitamente! Quando noi abbiamo creduto in quel giorno, abbiamo ricevuto sia la giustizia di Dio che la vita eterna. Non è che la vita eterna non l'abbiamo ottenuta quel giorno, l'abbiamo ottenuta, quindi abbiamo la giustizia di Dio e abbiamo la vita eterna, quindi conserviamo la fede. Come dice la Sacra Scrittura, il giusto vivrà per fede. Ricordate, queste parole sono citate negli ebrei: il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Quindi guardiamoci bene, fratelli, dal tirarci indietro, perché se noi ci tireremo indietro non saremo più graditi al Signore. Il Signore lo dice: se si tira indietro, cioè se il mio giusto si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Allora, come dice lo scrittore, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Ecco cosa bisogna avere per salvare l'anima: la fede. Tu hai la fede perché hai creduto nell'Evangelo. Serba la fede affinché veramente tu possa salvare l'anima tua. Il fine della fede è la salvezza dell'anima. Ricordati che quando arriverai alla fine del tuo corso, serbando la fede, ricordati che potrai dire: il Signore mi salverà nel suo regno celeste. Lo potrai dire solo per la grazia di Dio. Ricordatelo questo, per la grazia di Dio. Non per tutte le tue opere buone che avrai compiuto fino a quel momento, no, ma per la grazia di Dio. E se il Signore te lo concederà prima di partirti, dovrai ringraziare Dio. Tu ringrazierai Dio perché Lui ti ha fatto grazia. Ti ha fatto grazia dandoti la giustizia, la sua giustizia, e la vita eterna. Sì. Non è che tu dirai al Signore: ah Signore, io mi sono meritato la vita eterna, alla fine ce l'ho fatta, fetta dopo fetta alla fine ce l'ho fatta, quasi che il Signore poi ti debba poi ringraziare a te per tutti gli sforzi che hai compiuto per guadagnarti la vita eterna. No, assolutamente. Tu dovrai ringraziare Dio per la vita eterna che Egli ti ha donato. Ti ha donato. Il Signore ci ha dato la vita eterna, fratelli nel Signore. Ci ha dato la vita eterna, ci ha dato il suo dono. E noi veramente vogliamo ringraziare Dio per il suo dono ineffabile. Quindi vi ho voluto ricordare queste cose, naturalmente per la vostra edificazione, affinché vi guardiate da coloro che cercano di sedurvi, affinché quindi siate saldi nella fede e perseveriate nella grazia di Dio fino alla fine. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.